mi buco per la strada mentre guardo la gente che si sorprende, lo sente ma mente, nutre un sentimento di disprezzo per chi è depresso ed è scontento ora. Sono qui a un bivio, quello della vita, e mi trovo qui in un binario senza vita, e la mia vita è come una salita. Sarebbe bello, sai, cambiare il mio percorso, ma non sai cosa sto passando. Adesso mi trovo qui e mi chiedo se posso continuare a ridurmi in questo stato. Sto morendo, sto morendo.